Francesca, occhi cerbiatto, un sorriso che mi faceva diventare rosso. Nudo, era nudo il suo cuore, ferito da chissà quale padre. La sera cantava con gli angeli, voleva apparire divina, lo era per davvero, lo era, principessa nella notte scura, le passeggiate al mattino sui campi di grano gli facevano del bene, gli davano una mano a superare le crisi che come falci nel vento gli succhiavano il sangue di ogni suo canto. Non sembrava nemmeno sfiorata, era un fiore il suo sguardo, una perla, un raggio di sole, una vita spezzata ancor prima di morire. Francesca, io non l'ho mai vista farsi del male. Francesca parlava solo con le mani e mi svelava tutti i suoi segreti. Non aveva paura di restare da sola, malgrado la tempesta che dentro bruciava. Un giorno la vidi abbracciarmi d'amore, come Gesù era pronta a partire. Le diedi il mio bacio, mi diede la sua vita. Francesca, mia stella, scusa se non ti ho capita. Le passeggiate al mattino sui campi di grano gli facevano del bene, gli davano una mano a superare le crisi che come falci nel vento gli succhiavano il sangue di ogni suo canto. Non sembrava nemmeno sfiorata, era un fiore il suo sguardo, una perla, un raggio di sole, una vita spezzata ancor prima di morire. Francesca, io non l'ho mai vista farsi del male.